Silvana. Ciao Silvana, un abbraccio grande, grande, grande, grande, grande. Claudio, siamo sul palco, due voci sono lì e basta. Ma niente. Claudio Spalviero, sì. Non è più entrato perché non ha più computer. Sì, Claudio. Da due secondi, ma tu sta qua e... Tanto tu inizi a chiamare, Claudio. E arrivo, E arriva. Ma ci vuole un bacio grande, solo che mi sono dato un bagnetto per la vita. Quanto ho sentito bene, sali troppo forte, riparla, Claudio, vai. Riparla. Oh, te ci vanno un bacio grande, grande. E salutami che sono babbo di Bugnetta e tuo marito, ciao. Che fatto, Cla? Devo subito. Attento, doppio rum, doppio rum. Ti lasciamo sul canale 12? Questo momento parlo anch'io da notte. occupato, dove che mi stanno portando a 360 gradi. Mamma mia, no, guarda, non voglio essere quel panetto, ma nel modo più assoluto, perché non ci dormi, non ci dormi. Aspetti un secondo che c'è un tonio qua sotto che non lo senti tu. Ti saluto, un abbraccio grande, già ci aggiorniamo telefonicamente, ti saluto anche Antonio Gobbe, che c'è l'antenna un po' messa male e ti sente basso, capito? Ciao, comincio la prossima. Oh, Anto, 575 vai, 145, 575. Funziona benissimo. c'è un assorbimento quasi 15 ampere. E allora va dai più di 20. Adesso non c'è la... Non ho collegato il rosmetro per vedere il wattometro, va. A vedere quante volte sta erogando. Riesci a vedere con questa posizione. Adesso vediamo un po'. Guarda adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9,35, sì, non c'è a scappare. Sempre 9,35. Ok. Già va bene. L'ICG praticamente c'è la minimo, Perché se aumento va a saturazione dopo. Lasciala così che funziona grande, veramente molto molto bene. Minchia. Arrivi con l'orivi con quelle grande, né più né meno. Figurati. E questo è un 68, quel 68. I primi 68 l'avevano fatto, Poi ricordaci che l'avevo andato a modificare. Va bene. E se lo metto in macchina, allora in macchina la porta Torres. Con quell'antenna hai mandato tu, arrivo 9:10, da dentro al porto, a Sassari. Io mi ricordo quando andavo a pescare, io mi appasco e vado in bel forte. Quando mi arrivo ancora più forte. No, va bene, funziona bene. Stavo provando l'altro, però non va, non da vatto. Da 2 watt e qualcosa, quindi non lo posso neanche pilotare. Quell'altro grande. Sicuramente c'è qualche finale bruciato lì. Sì, come? Quello si può aggiustare piano piano. Però prendi e vedi un pochino. Bisogna cercare i finali. Se sono i finali bisogna cercare i finali con la vari. Anche di concorrenza, Metti tre cose, Silvestro, il portatore, se mi ha detto, ma che radio stai utilizzando? Gli ho detto, guarda, una da 68. Ma come, non ci credo, non ci crede nessuno che sta usando questo. Sì, non ci credono. Cioè, non ci credono, ma ho capito che a volte ci sono baracchini che escono meglio le radio grosse. Io non ho subito tre canali, io non ho voluto dare più tre. Non ci credono, vabbè. No, ma anche questo è del microfono, avevamo fatto quella modifica col ponticello, capito? Questo qua. Cioè, dopo la metro 100 l'ho tolto, ho messo questo da tavola a provare come stava andando. No, va bene. La metro 100 c'è un eco, spinge lo stesso, questa è una bella modulazione. Non è cupa, è bella amplificata. Poi a me l'eco non mi piace qua, mi piace utilizzare questo, capito? Così la voce esce meglio, anche con quest'eco non si capisce niente. Tutto lì. Poi ne ho un altro che è preamplificato sempre, non so se lo conosci, quello che va alimentato praticamente con una batteria da 1,5, con quella rotellina sino a 10. Ah sì sì, tipo M2 partner, quello lì, quello c'è questo. Esatto, esatto. Poi c'è l'MBC2, quello con la batteria 9, della tutta il Palmare, il primo modello il coso, il Palmare. Quello azzurro e bianco, col capo azzurro. E l'MBC2 con la panna, quello. Capito? L'MBC2, che è quello manuale, praticamente con la panna e con la bottellina. Amplificato, conosciamo bene. Ma lui, se ti guarda che ti ho fatto quel cavo che avevi chiesto, quello per adattare tutti i tipi di microfono. Ah, perfetto. Intanto siamo attivati, sono a riposo, mi fa. Lì ci vediamo. Per quel cavo lì, quello che ho fatto io, puoi mettere tutti i tipi di microfoni, capito? Puoi invertire con lo spinotto, puoi usare un microfono, puoi utilizzare su tutte le radio, senza bisogno di fare connessioni, aprire spinotto e niente. Funziona su tutti i tipi di microfono. Perché non c'è l'aggancio, è liscio, e quindi puoi cambiare la destra, a sinistra, no? Esatto, lo puoi girare come vuoi. E qualunque posizione che non va, lo giri e poi funziona per forza. fosse venuta. Io gli ho fatto due di quei casi, uno a te e uno a me, e li ho preparati a grande della clave, li vedo così, ti faccio vedere come funziona ora che sei tutto qua. Ma comunque diciamo che va bene, mi sto ascoltando in cuffia e la radio è bella, bella pulita, tranquilla. Che se ci vuole pulita? È bella forte, buona. Quindi a due, se la metto ti spacca gli orecchie sul microfono. Se mi interessa c'è più di tanto, lascio questo, tu già do questo, va bene lo stesso. Apri la pubblicazione, questo microfono è allucinante, che sì. Tutti i numeri si sentono, che non c'è va bene, sì. Adesso il microfono l'ho messo a 2. Perché questo lo posso portare anche a 5 volendo, devo mettere anche qui, però poi va in saturazione, si capisce nulla. L'ho tolato così e lo lascio così. No, no, già va bene. Lascio fare così. E infatti, come io. Ma ogni tanto quando l'ho acceso stasera ho fatto pulizia qua, si è trovato un po' di corpo. E adesso l'accendo, non sta funzionando la baradà qua. C'è anche una rosa, 30 km da collegare, io non ho avuto solo che quegli spezzoni che c'ho dal 213 non vanno bene, gatta, non piegano un casino. Quindi ci vuole R58, capito? Per piegare meglio. Siccome c'ho gli spezzoni tutti a 213 io qua. No, vabbè, ma il 213 è più rigido, questo dice io molto l'H510. Piega benissimo, anzi anche troppo. Questo qua è un bel rigido come capo, però è buono come capo questo qua, non c'è niente. E poi c'è il PL e tutti quanti quelli bacchiriti, non è di quei PL in plastica, che come scaldi si sciolgono. E si sciolgono perché l'hanno tenuta a stagna. Non servono a niente, sono PL che non servono a niente quelli. Io quei PL lì li ho tutti buttati alla mondezza qua. Quelli pazzi non li compro io. Oh, si sciolgono, non se ne vado a massa. No, no, no, qua i PL sono quelli buoni. Quelli che non servono a niente, li abbigliano in culo, capito? Allora io mi sto lamentando, aspetta Sant'Antonio, ma io fammi andare a dormire, bisogna dormire nella Gabriella. Ci sentiamo fine settimana allora? Va bene, Claudio, dai, anche io chiudo attanto, così mi guardo un po' di televisione. Allora, va bene, Claudio, ci aggiorniamo fine settimana allora, ok, buonanotte a tutti, per me qui a Reti, senza in casa anche da parte mia, ok, thank you. Io fa, ti siamo un po' nella varia, vai, alle prossime, ci aggiorniamo a fine settimana, va, e così ci vediamo. Sono tanto nuovo, se l'ascolto, mi sono tremendo, raga, è venuto la macchina, come dice qualcuno, va, mi sono tremendo, se no poi non rispondo più. Ciao a tutti, buonanotte. Ciao Claudio, buonanotte, saluto di casa, ciao ciao ciao, ci aggiorniamo a fine settimana, ciao, thank you. Saluto anche a quelli che sono in ascolto, che per essere un PVL, per me è QRT, ciao.